La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla Rosa Purpurea, come tutti i sabati, a raccontarvi tutto il cinema che c'è in questo weekend di qualità, di grandi autori, ma di pochi film in sala. Un saluto da Franco D'Assisi, il nostro appuntamento comincia qui e come sempre per un'ora vi terrà compagnia, principalmente basandosi sui film, sulle novità che sono arrivate in sala questa settimana, ma non solo. Parleremo di James Bond, perché è in atto una vera e propria battaglia per capire chi sarà il prossimo Bond se Daniel Craig dovesse abdicare a questo regno, e siccome gli appassionati stanno cominciando a parlarne, lo faremo anche noi con voi, giocheremo insieme, come sempre, perché settimana prossima non siete stati tanto bravi, cioè avete giocato in tanti, ma nessuno ha indovinato entrambi i film che vi avevamo proposto da quel famoso, diciamo, autore che dovevate azzeccare. E allora, sta settimana vi riproponiamo altri due film, dovete indovinarli, provare a vincere questo corposo cofanetto, una sorta di opera non omnia, ma comunque importante, di questo autore. Insomma, state con noi, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, e la nostra mail, La Rosa Purpurea chiocciola radio24.it, e siamo pronti a partire. Dicevo, settimana di qualità, perché i film sono pochi, sono quattro questa settimana, e queste sono le stranezze della distribuzione. Pensate che il 26 gennaio ne usciranno 11, ecco, magari mettersi d'accordo e fare un po' e un po' poteva non essere male. Buon per chi esce, perché chiaramente ha più spazio, ha più novità, stanno andando bene alcuni film che erano già in sala, per esempio Collateral Beauty, che sta diventando un po' un caso, se vogliamo, perché non aveva avuto proprio una critica super favorevole, ma sta prendendo molto il pubblico. Sta andando bene Mister Felicità di Siani, che è sicuramente la commedia di questo fine inizio anno italiana di maggior successo. In questa classifica, in questo box office, chiaramente nel weekend potranno inserirsi anche alcuni film, anzi si sono già inseriti alcuni film nuovi, a cominciare da The Founder, il fondatore, di John Lee Hancock. Il fondatore non è niente che colui il quale ha invaso di panini, praticamente, di hamburger, tutto il mondo, ovvero McDonald's, interpretato da Michael Keaton. Cavolo, ho visto un ristorante. Non ne avevo mai visto uno così in tutta la mia vita. Hanno questo sistema completamente automatizzato, si chiama Sistema Espresso. Mm-hmm. Un nome perfetto, perché diamine se è veloce. Ti giuro, sembra una cosa partorita dalla mente di Henry Ford, per capirci. È rivoluzionaria? È rivoluzionaria. Esattamente questo, rivoluzionaria. Sono gli Stati Uniti degli anni 50, del dopoguerra, del boom economico, del sogno americano, quello in cui chiunque può inventarsi un'idea che, se ha successo, lo porterà sui vertici del mondo. Ed è quello che succede a un venditore di frullatori per ristoranti, dallo scarso successo, ovvero Ray Kroc, che conosce i fratelli Mac e Dick McDonald, che invece in California hanno cominciato a vendere hamburger in maniera piuttosto redditizia. Questo venditore, questo Kroc, che tra l'altro, come dire, è onomatopeico rispetto alle patatine, per esempio, questo Kroc comprende subito che questo nuovo metodo, di cui avete sentito parlare nella clip, potrà portare a una sua serializzazione, a diventare un modus mangiandi, chiamiamolo così, che conquisterà prima gli Stati Uniti, poi il mondo. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris! Salve Franco! Ciao caro, senti, non so se stai mangiando panini in questo momento, ma mi viene da chiederti invece tutta un'altra cosa, ovvero fare un biopic oggi, cioè un film biografico che segue le gesta, la storia di un grande personaggio, è chiaramente opera rischiosa se non vai troppo nel passato, perché stare vicini ai nostri anni rende sempre tutto un pochino più difficile. Però mi sembra che John Lee Hancock se la sia cavata bene, anche grazie a un attore totalmente rilanciato ormai negli ultimi anni come Michael Keaton. Se l'è cavata benissimo, perché come fanno quelli bravi, il biopic non è tanto del personaggio quanto di una delle storture o delle grandezze del capitalismo, a seconda di come la guardi, di come li guardi, perché di fatto Ray Kroc è un simbolo che secondo me va da Tucker, un uomo e il suo sogno, di Francis Ford Coppola, fino a The Social Network di David Fincher. Cioè raccontare al mondo che in un sistema economico come il nostro, quello che è considerato il sistema economico preeminente, la grandezza, la genialità non è solo di chi si inventa le cose, ma anche di chi sa commercializzarle al meglio. E in questo senso la clip che hai scelto, secondo me, è illuminante, perché Ray Kroc capisce che la grandezza del McDonald's non sta negli hamburger, non sta nella qualità gastronomica, sta nell'impianto fordista della produzione e distribuzione dei panini. Loro non lo sanno perché non l'hanno reso un franchise, non hanno capito le potenzialità globali di quella loro idea, l'hanno solo sviluppata all'interno del loro punto vendita. Lui capisce, nonostante sia un fornitore fallito, tra virgolette, lui capisce che questo può diventare un impero. E la domanda che ci pone John Lee Hancock è: il genio chi è? Quello che se l'ha inventato? Oppure quello che ha capito che sarebbe diventato qualcosa che avrebbe modificato non solo il nostro sistema economico e gastronomico, ma anche il nostro immaginario? Lee Hancock ha due fortune. Una è Michael Keaton. Michael Keaton, come Jesse Eisenberg in The Social Network, riesce a prendere il film sulle spalle e a fare in modo, con il suo viso, con la sua mimica, anche con la sua capacità perdonatemi il verbo inesistente, pupazzarsi, nel senso di rendersi quasi un Ronald McDonald in carne e ossa, quel pagliaccio triste e allo stesso tempo allegro diventa una sorta di suo ritratto di Dorian Gray, riesce a tenere su di sé anche quell'inquietudine di chi sa in fondo di essere una sorta di nobile vampiro, e anche abbastanza cinico, perché ovviamente il suo obiettivo è quello di andare a guadagnare il più possibile. E il mondo in fondo che cosa fa con Henry Ford, che è il faro di Ray Kroc? Una parte del mondo lo glorifica come un padre fondatore dell'economia, un'altra parte del mondo lo vede chaplinianamente come il più grande degli sfruttatori. Ecco perché questo non è un biopic classico, perché lo è nel racconto, lo è nella visione, lo è anche nella costruzione del personaggio di Michael Keaton. Però c'è Michael Keaton e soprattutto c'è un'idea di cinema e di mondo che viene veicolata, e per cui il biopic è appunto solo un mezzo e non il fine di questo racconto. Hai messo gli archi di Dick sulla tua carta intestata? Questa non è la tua impresa, Ray! Mac... L'hai capito o no questo? Mac, non ti innervosire. Noi abbiamo inventato il sistema espresso, non tu. Noi, tu che cosa hai inventato? C'è una cosa almeno? Non c'è! Non inventerai mai niente perché tu sei una sanguisuga. Sei il maestro delle sanguisughe. E allora, per ripercorrere la storia dell'impero degli hamburger, c'è The Founder. A questo punto noi diamo la linea alla regia, alla viabilità, per sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea. Ci aspetta Martin Scorsese con Silence. La Rosa Purpurea. Ferreira è perduto per noi. Ha denunciato Dio in pubblico e rinnegato la fede. Non è possibile. Padre Ferreira ha rischiato la vita per diffondere la fede in Giappone. A me sembra che la nostra missione qui sia più urgente che mai. Dobbiamo andare a cercare Padre Ferreira. È quello che avete ambedue nei vostri cuori? Sì. Allora devo credere che sia Dio a ispirarvi. Dall'istante in cui metterete piede in quel paese, sarete in grave pericolo. E questo è un passaggio di Silence di Martin Scorsese, il film di cui vogliamo parlarvi ora, sicuramente il film, come dire, più pregnante in termini cinematografici di questa settimana, e non solo probabilmente. Ritorna il regista che, come dire, ha rivoluzionato il cinema americano negli anni 70-80, ritorna dopo un successo clamoroso e anche così diverso come The Wolf of Wall Street, e ritorna con un film diametralmente opposto, anche questo fluviale, ciclopico, 2 ore e 40 di durata, ma con un tema totalmente diverso, con una poetica totalmente diversa, con una capacità di creare immagini straordinaria. E chi poteva negarlo a Martin Scorsese? Però fa sempre piacere vedere che questa capacità è rinnovata. Il film racconta, l'avete sentito dalla clip, la storia di una missione, di un viaggio, quello di due missionari portoghesi che nel XVII secolo andarono in Giappone per evangelizzarlo, ma soprattutto per cercare un padre, questo padre Ferreira, di cui si fa eco nella clip, che era scomparso, di lui non si avevano più tracce, notizie, era andato lì per diffondere il cristianesimo, chissà che fine aveva fatto, chissà che realtà si sarebbero trovati di fronte a questi due missionari. Ed è una realtà che, come dire, fa veramente rima con il senso della religione, della fede, il senso della propagazione, dell'evangelizzazione, che oggi è così tanto al centro del dibattito, appunto, delle religioni e purtroppo anche dello scontro di religioni. Silence di Scorsese racconta questo con, ripeto, un tocco di grande poesia, con anche però grandi momenti di drammaticità, con un cast che mette insieme un paio degli attori che oggi, voglio dire, sono dei must to have, cioè bisogna averli in locandina. Ormai Adam Driver l'abbiamo visto con Jarmusch, adesso ancora, insomma, non dico onnipresente, ma davvero sta lavorando tantissimo. L'altro è Andrew Garfield, ma anche con volti più noti, come quello di Liam Neeson, per esempio, e anche con tutta la parte ovviamente giapponese del cast. Boris, dicevo, la cosa sorprendente di questo film è, al di là della qualità del film, che mi ricorda alcune atmosfere, tanto per restare nella squadra di Scorsese, al volto di Robert De Niro, mi ricorda alcune atmosfere di The Mission di Roland Joffé, e quindi andiamo molto in là nel tempo. E peraltro è già dagli anni Ottanta che Scorsese voleva adattare il romanzo di Shusaku Endo per il grande schermo. Poi servivano molti soldi, perché è un film chiaramente molto costoso, e quindi il progetto fu accantonato per ben 25 anni. Però, dicevo, ricorda un po' quelle atmosfere, ma la cosa straordinaria è vedere come Scorsese faccia un doppio carpiato rispetto a The Wolf of Wall Street, con un film di poetica, di regia e di storia così completamente opposto. Guarda Franco, faccio una provocazione: siamo così sicuri che siano due film così diversi? Ovviamente è una battuta paradossale, ma se noi sostituiamo il denaro e la droga che girano in quel film ipermaterialista, e li sostituiamo appunto con la religione, il fanatismo, l'ideologia, forse in questo film, che è chiaramente più ascetico, dai ritmi completamente diversi, forse sentiamo il significato profondo della stessa cosa, cioè di uomini ossessionati da qualcosa di più grande di loro, uomini che credono di padroneggiare ciò che sentono giusto e da cui poi vengono inevitabilmente dominati. E Silence non è solo uno dei più bei film di Scorsese, ma secondo me è uno dei film che ci farà più riflettere di Scorsese anche sul suo stesso cinema, che è un cinema di fedi tradite, di martiri, di probabilmente posizioni sbagliate abbracciate con straordinario eroismo, e anche insensato eroismo, inconsapevole eroismo. Ecco, Silence però è anche un toro scatenato con il crocifisso. Cioè, Silence è tutto il cinema di Scorsese e, come dicevi tu, però anche tanto, tanto, tanto altro. Una delle cose che fa più impressione è che questo film fosse pronto 30 anni fa, fosse nella sua testa già 30 anni fa, perché attuale come lo è adesso non lo sarebbe mai stato. Queste sono forse le magie del cinema. Tutte le difficoltà che ha avuto Scorsese nel fare questo film probabilmente sono servite a farlo uscire nel momento giusto, perché è vero, è ambientato nel XVII secolo, ma sembra ieri, anzi sembra oggi e purtroppo anche domani. Qual è la forza di Martin Scorsese? Come molti registi italoamericani, ha un rapporto con la religione viscerale, molto materiale, molto corporeo. Io penso anche ad Abel Ferrara, per dirne un altro. E qui ci racconta non tanto che cos'è il cristianesimo e neanche che cos'è un'opera di proselitismo che in sé porta molta ambiguità. Ci racconta la fede nella sua portata stoica, ma anche forse nella sua portata invasiva, invadente. Ci porta delle domande senza dare delle risposte. In questo senso forse l'unica piccola virgola sbagliata sono proprio i 10 minuti finali, in cui risulta leggermente più didascalico, più catartico, ma probabilmente è il Martin Scorsese spirituale che ha bisogno di un appiglio nel personaggio di Andrew Garfield. La sua fortuna è trovare sulla sua strada un ottimo Adam Driver, secondo me più espressivo, sta crescendo, lavorare con grandi registi lo aiuta, e un Andrew Garfield che finalmente sta trovando la sua strada. È sempre stato un attore di grande talento, non ha quasi mai scelto i film giusti, adesso in un anno ne ha scelti due, questo è La battaglia di Oxon Ridge con Mel Gibson. Stranamente tutti e due sono film sul martirio di un uomo solo contro tutti, della ricerca dell'espiazione attraverso il sacrificio personale. Silence è un'opera straordinaria, è un'opera che secondo me noi fra 20 anni ricorderemo come uno dei capolavori di questi tempi e come uno dei capolavori di Martin Scorsese, proprio perché ha la forza di mettersi sempre in discussione. Apparentemente i cattivi sono i giapponesi, i buoni sono i cristiani che portano la verità, e però guarda un po', le cose di buon senso le dicono i giapponesi e i fanatici sembrano i cristiani. Non ha una risposta per nulla, ma ha una domanda per tutti, e il cinema secondo me è questo, ed è la grandezza di Scorsese che, come dicevi tu, ha rivoluzionato il nostro modo di fare cinema, ma anche di pensarlo. Io prego, ma sono sperduto. Alla mia preghiera risponde il silenzio. Gran film questo Silence di Scorsese, che in America non ha, va detto, è uscito poco prima di Natale, non ha incassato tantissimo, ma sappiamo il circuito del cinema americano ormai è strano, cioè Scorsese è un autore, è percepito come tale, e chiaramente il gross, come lo chiamano gli americani, cioè l'incasso totale non dice chiaramente, non dice mai niente della qualità di un film, ma in questo caso ancora di più. Scorsese ormai è un autore del mondo, è un autore che spesso fa meglio anche fuori dalle mura domestiche, soprattutto con un film come questo, che è un film di grande spessore, ma insomma di grande permanenza. È un film che rimarrà sicuramente negli anni. A questo punto noi cominciamo a giocare insieme, l'avevo detto all'inizio della trasmissione, torniamo a giocare con il nostro gioco della settimana scorsa, perché nei due film che vi avevamo proposto la settimana scorsa nessuno dei nostri ascoltatori era riuscito ad indovinarli entrambi. Si tratta di due film dello stesso autore che fanno parte di un cofanetto molto bello, che mette insieme un bel po' di film di questo autore, che noi vi regaleremo per appunto i nostri ascoltatori, ma dovete indovinare prima questi due film. Stavolta ve li faccio ascoltare tutti e due, le due tracce, sia adesso che dopo, così magari potete anche già indovinarle entrambe e portarvi sicuramente avanti. Cominciamo con il primo film. Ma che sta facendo? Perché non lo denuncia? Perché è furba. Ma così si farà arrestare. Però uscirà viva da lì. Guardi, si è messa la fede. E questo è il primo film. Il secondo film, dello stesso autore, dello stesso cofanetto, è invece... Dove? Non lo so. Commissioni? No. Ha una meta particolare? No, pensavo di andare un po' in giro. Stavo per fare altrettanto. Allora, avete indovinato di quali due film si tratta? Scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it. Primo film, secondo film, i titoli, il vostro indirizzo. Provate a vincere questo splendido cofanetto su questo autore. Più tardi vi facciamo ascoltare altre due tracce. Torniamo da Boris Sollazzo, perché c'è un piccolo film di cui vogliamo parlarvi in questa settimana, da 4 opere in sala, 3 delle quali di grandi attori, di grande respiro. C'è una produzione italiana documentaria che si intitola Magic Island. For you I follow gently downstream. But you might be as good at this as home. Hello? Katya. From Sicily. I'm good. How are you? Ladies and gentlemen, good morning. We're arriving to Palermo. E allora, Magic Island, il viaggio di Andrea, figlio di un attore italo-americano, Vincent Schiavelli, il viaggio nella terra d'origine del padre. Boris, un minuto per raccontare questo Magic Island che vale la pena essere visto. Assolutamente sì, Magic Island è un on the road, prima ancora che un documentario. Marco Amenta è un bravissimo documentarista, un ottimo regista, però è anche la dimostrazione di come questi due generi possono compenetrarsi alla fine e elidersi l'un l'altro e creare una nuova forma di finzione reale. È il racconto di Andrea Schiavelli, che è Andrea Schiavelli, un musicista americano, figlio di Vincente Schiavelli. Vincente Schiavelli è un po' il Tiberio Murgia americano, uno dei più grandi caratteristi della storia del cinema statunitense, caratterista feticcio di Milos Forman, praticamente ha partecipato a tutti i suoi film, da Qualcuno volò sul nido del cuculo ad Amadeus, dove era il valletto di Salieri, lo ricordiamo anche in Ghost, è il fantasma della metropolitana, più di 150 ruoli, sempre dietro le quinte, e la sua è una vita dietro le quinte anche in famiglia, perché a un certo punto decide di andarsene, di fare come i vecchi indiani, di andare a morire nel proprio posto del cuore, nel suo caso è la Sicilia. Andrea ne soffre perché non può e non riesce probabilmente a dire tutto quello che vorrebbe al padre. Dopo qualche anno è costretto a tornare in Sicilia per riscattare l'eredità del padre. Capirà che non è solo un'eredità materiale, ma anche umana. Amenta, con i giusti ritmi, con le giuste regressioni, con la giusta sensibilità e anche con una grande capacità musicale, perché appunto Andrea è un musicista, riesce a restituirci l'atmosfera di chi parte alla ricerca del proprio padre, e di solito quando si parte alla ricerca dei propri genitori si parte soprattutto alla ricerca di sé. Ne esce fuori un film poetico, intimo, toccante, che secondo me va visto, un po' per conoscere meglio il cinema, perché questi personaggi non vengono mai raccontati come dovrebbero, un po' per conoscere meglio anche noi stessi, perché dubito che qualcuno non si possa non riconoscere in una piccola epopea di questo genere. Quindi bravo Marco Amenta e anche bravi distributori ad aver avuto il coraggio di portare in sala un film così. È davvero, V.S. Schiavelli è un nome che, se lo digitate su Google e guardate l'avviso, vi renderete conto di averlo visto almeno 100 volte in tantissimi, tantissimi film. Allora, linea alla regia, fra poco torniamo con la coppia, non so se dell'anno, del secolo, la finta coppia, la futura coppia, comunque Brad Pitt, Marion Cotillard per Allied. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con una grande coppia di divi. È un po' di questa terza parte del programma, un po' il tema è quello, il divismo, perché il cinema ne ha tanto bisogno, ma a volte, anzi spesso, sembra un po' scomparso. Beh, oggi sicuramente Brad Pitt sul fronte maschile e Marion Cotillard su quello femminile rappresentano forse l'eccellenza di questa, la quintessenza quasi di questa particolarità, di questa caratteristica, appunto l'essere divi, e si trovano insieme in un film che ha un regista importante, una firma importante come quella di Robert Zemeckis, per un film di spionaggio d'epoca ambientato nella Casablanca del 1942 e non solo, che si intitola Allied. Mi avevano detto che eri bella. È brava. Essere bravi in questo lavoro non è molto bello. Ci stanno guardando. Su, baciami. Dopo la guerra, sai dove andare. Quando la guerra sarà finita, non importa dove andrò. Siamo perfetti insieme. Vieni con me a Londra. Sposami. E avete sentito che le atmosfere chiaramente romantiche, epiche, si fondono con quelle appunto della guerra e soprattutto di questa missione, di questi due personaggi. Max, che arriva a Casablanca per conoscere Marianne, devono fingersi sposi. Perché? Perché devono cercare di farsi invitare al ricevimento dell'ambasciatore tedesco e assassinarlo. Questa è la missione, un'operazione chiaramente che avrà mille rischi, mille pericoli e che soprattutto giocherà molto sul ruolo finto, fingersi marito e moglie, ma anche sull'attrazione vera invece che scocca fatale fra questi due personaggi. Robert Zemeckis cerca appunto di miscelare le atmosfere da spy story, che in certi momenti prevalgono, a quelle appunto del grande film romantico, e il fatto un po' che si svolga in gran parte a Casablanca un pochino è una citazione, se vogliamo, in un certo senso, per un cinema che, come dire, cerca sempre più l'analisi della tematica prima che la storia, prima che la grande storia. Ecco, questo è un esperimento di un cinema sicuramente saldamente classico, ma che come dire, riporta un respiro cinematografico fine a se stesso, ed ecco anche l'aggancio al discorso dei due divi da locandina, di cui secondo me c'è particolarmente bisogno. Boris, ti sei divertito abbastanza o hai qualche remora su questo film? Guarda, è giusto proprio il termine che hai usato, abbastanza? No, non mi sono divertito abbastanza, mi sono divertito un po', mi sono goduto le citazioni e un narratore come Zemeckis, che sicuramente ha in sé il gusto del classico, il gusto del cinema propriamente detto. Qui addirittura secondo me diventa quasi lezioso nel proporcelo e nel raccontarcelo. Anche perché appunto si va da Casablanca allo Spielberg più di genere, dalla Talpa anche però ai romanzi Le Carré meno felici, per andare a pescare in un genere, quello della spy story, che nel frattempo però ha fatto passi da gigante ed è diventato altro, oltre storie di cappa, spada e cuori. Il problema forse è proprio questo: il film è un film vecchio, certo, volendo fare un parallelismo che è non solo cinematografico ma anche umano con Mr. e Mrs. Smith, non siamo a quel livello là, se non forse che il nostro Brad Pitt abbia replicato magari nel suo menage matrimoniale lo stesso tipo di errore, o forse no, perché mi sembra che cada sempre in piedi. Marion Cotillard è una spanna sopra, lui sembra rincorrere una giovinezza che non c'è più anche esteticamente, la sceneggiatura diventa un pilota automatico veramente troppo in fretta, e il punto è proprio quello: se vi piace il genere riuscirete a far strappare una sufficienza a questo film, se non vi dovesse piacere il genere rischierete di annoiarvi, di trovare un qualcosa di già visto, già scritto e anche già sentito. Si riscatta forse proprio nel personaggio di Marion Cotillard, che nel pezzo che avete mandato dice: quando sarà finita la guerra non importa dove starò, che un indizio su di sé all'amato che sarà suo marito glielo dà, ma l'amore è più forte di qualsiasi talento spionistico e quindi non ci sarà la possibilità di capirlo da parte del nostro povero Brad. Insomma, da Zemeckis, Pitt e Cotillard, un tridente così mi sei aspettato di meglio che uno streaming sito 1-0, però me lo porto a casa, sono sempre 3 punti. E allora, 3 punti per Allied, film che comunque insomma adesso è molto atteso alla prova del botteghino, perché qui quando poi schieri queste forze qua bisogna che che poi la gente risponda. Boris, ascoltiamo insieme invece questo servizio che abbiamo fatto preparare la nostra Chiara Pizzimenti, perché questo film è stato anche un po', anche nella vita privata di Brad Pitt, è stato un po' un film parabola, no? Perché si dice, dicono i sospiri, che proprio su questo set lui abbia avuto una storia con Marion Cotillard, che abbia segnato la fine del suo sodalizio con Angelina Jolie, che era iniziata, guarda caso, anni prima su un set, quello di Mr. e Mrs. Smith. E quindi c'è un po' anche il racconto di queste grandi coppie che si fanno e si sfanno sul set. Sentiamo. Era ipnotizzante, era imprevedibile. Ora il mistero è diventato noia. C'è come un muro tra noi due che diventa sempre più spesso. Non è possibile. Non è possibile. Quella donna non è tua moglie, è il nemico. A riascoltarlo adesso, il trailer di Mr. e Mrs. Smith suona profetico, perché sì, sanno tutti che Galeotto fu il set che vi recitò, ma la realtà sembra la trama della pellicola. Brad Pitt e Angelina Jolie, caduti allora nelle reciproche braccia, sono ora l'uno contro l'altra armati, non con pistole, ma con avvocati feroci. La coppia più glamour e filiante del mondo, con il nome unico di Brangelina, è arrivata al capolinea. Guarda cosa ti inventa il fato, proprio con un altro film da spie, Allied, in cui lui recita con un'altra. Siamo perfetti insieme. Vieni con me a Londra. Vieni con me e sposami. Ti amo con tutto il mio cuore. Non c'è un modo facile per dire quello che dobbiamo dire. Sospettiamo che sua moglie sia una spia tedesca. I protagonisti hanno più volte smentito qualsiasi liaison, ma le cronache rosa si sono sbizzarrite sull'altra, Marion Cotillard, peraltro incinta del compagno, che aveva ripetuto quello che la Jolie aveva fatto a Jennifer Aniston. Favola e controfavola, dunque, come spesso accade a Hollywood, dove le coppie sul set nascono e muoiono abbastanza in fretta. Solo di recente Emma Stone ed Andrew Garfield, Ben Affleck e quasi tutte le sue storie. Eccezioni ce ne sono, e una è sia conferma che caso a sé. Elizabeth Taylor e Richard Burton, amore infinito e travagliato di Cleopatra e Marco Antonio. Meglio allora godersi i perfetti sullo schermo, da Casablanca, Bergman, Bogart, a Come eravamo, Redford, Streisand, separati alla fine, passando per La Cenerentola felice, Pretty Woman e il non matrimonio di Hugh Grant e Andy McDowell, lasciandoci una speranza aperta, Kate e Leo. Perfetti sul set che nella vita vivono amore fraterno, ma solo perché DiCaprio non ha ancora capito che la Winslet è l'unica donna per lui, e lo sappiamo tutti da prima che il Titanic affondasse. Ci siamo! Oh mio Dio! Tienimi forte! Oh mio Dio, Jack! Oddio! Oddio! Non lasciare la mia mano! Non dimenticherò, Jack. E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato così allora gli amori dei grandi divi sul set. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima settimana e buon cinema. Allora, noi abbiamo solo il tempo per giocare ancora insieme, visto che parliamo di Spy Story, insomma, questo signore che ha fatto i film che sono dentro questo cofanetto che vi regaliamo, era uno che ne sapeva, insomma, di Spy Story. Riascoltiamo le clip dei due film che dovete indovinare. Ma che sta facendo? Perché non lo denuncia? Perché è furba. Ma così si farà arrestare. Però uscirà viva da lì. Guardi, si è messa la fede. Guardi, si è messo la fede. C'è qualcuno che guarda, mi raccomando. Questo era il primo film. Il secondo, invece. Dove? Non lo so. Commissioni? No. Ha una meta particolare? No, pensavo di andare un po' in giro. Stavo per fare altrettanto. Atmosfere appunto un po' più dense di sospiri che mischiano il noir, la spy story e l'amore. In questo secondo film scriveteci i due titoli a La Rosa Purpurea, @radio24.it, col vostro indirizzo. Provate a vincere il cofanetto di questo straordinario autore che sveleremo la prossima settimana. Adesso Viabilità, fra poco torniamo qui alla Rosa Purpurea con tutto il cinema da vedere in casa, ma soprattutto con il grande quesito: chi sarà il prossimo James Bond? La Rosa Purpurea. In questa salita e discesa di semicrome, come dicono quelli che se ne intendono di musica, c'è tutto un mondo. Sono quelle note che ti rendono immediatamente riconoscibile, una specie di biglietto da visita. Stiamo parlando di James Bond, perché? Perché è in atto un momento strategico importante per il futuro di questo personaggio, perché ci avviciniamo al momento in cui bisognerà varare il progetto del 25esimo film di 007, l'ultimo, il 24esimo, Spectre, è del 2015. Come sempre negli ultimi anni, il personaggio, l'agente a servizio di Sua Maestà, era interpretato da Daniel Craig. Adesso si va verso il progetto del 25esimo 007, che la produzione vorrebbe pronto per la fine del 2018. Per fare questo però bisogna che Daniel Craig dica sì subito, dica di voler continuare ad essere lui James Bond, e su questo pare che ci siano un po' di incertezze. Noi abbiamo contattato un amico di questa trasmissione, Ilario Citton, fondatore del Le Cercle, che è il club dei bondofili italiani, che tra l'altro ha anche un sito, lecercleclub.com, tutte le informazioni su tutti gli 007 del passato, del presente, del futuro, dibattiti, riviste, veramente una miniera per gli appassionati del genere. Ilario, ben ritrovato, ovviamente ti trovo a Londra, perché insomma uno che bazzica 007 dove lo vuoi trovare? Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Franco e... Viva James Bond, eh? Viva James Bond. Senti, ma Sua Maestà lì, che si deve essere ripresa dalle ultime problematiche di salute, cosa dice su James Bond? Daniel Craig lo fa o non lo fa? Allora, i tabloidi inglesi si sono scatenati la scorsa estate, anche adesso in autunno, con vari articoli di vario tipo. Sai, qui la situazione, siamo un po' preoccupati, perché Craig aveva lasciato dicendo non farò più James Bond, a costo anche di tagliarmi le vene. Mi ricordo proprio... e ci fece saltare sulla sedia. Ma poi, in quest'estate, disse anche al Festival del Cinema di New York che forse ci avrebbe anche ripensato. Quindi Barbara Broccoli in questo momento è con lui a New York perché sta recitando nell'Otello, quindi sta facendo teatro, perché l'attore vuole fare qualcos'altro nella vita. E sembra che sia lì per convincerlo. Però i tempi devono essere veloci, altrimenti non ce la facciamo per il 2018. Assolutamente, perché se Daniel Craig non si convince alla svelta, o se si convince di non farlo, si apre tutto uno scenario su chi possa essere il prossimo James Bond. E qui trascina dentro tutto un ragionamento anche sul personaggio, non solo sull'attore, sul ringiovanimento del personaggio, sulla necessità che sia un trentenne, per esempio, per cercare di riportare questo personaggio anche, come dire, a quel pubblico più giovane che magari ha amato altre saghe spy degli ultimi anni, ma che magari si era un po' allontanato dal classicismo così affascinante di James Bond. E allora si fanno dei nomi giovani, quello di James Norton, quello di Aidan Turner, soprattutto fra i giovani direi quello di Sam Coughlin, che è il protagonista, il bel protagonista di Io prima di te, un successo di questo inizio estate, e che fra questi tre nomi mi sembra francamente quello che ha un po' più anche le physique du role. Sono d'accordo con te. Sam Coughlin lo trovo molto interessante. Un ragazzo è un trentenne di Ipswich, in inglese al 100%. Lo metterei in testa alla classifica. Però occhio a Aidan Turner, perché Aidan Turner potrebbe essere una scelta, se ne è parlato spesso e parecchio, una scelta, un ritorno al passato. I tratti somatici ricordano ovviamente vagamente Sean Connery, quindi porterebbe sicuramente i vecchi fan, ad avere a tornare a un James Bond molto fascinoso, quindi molto diverso da Daniel Craig. Secondo me, guarda, il dopo Craig, se mai ci fosse, sarà una scelta radicalmente diversa, come è sempre stata nella storia dei film di James Bond. Però, a mio avviso, guarda Franco, Daniel Craig almeno un altro film lo farà. Quindi tu sei per il continuare con Daniel Craig. Ricordo che un altro nome che si fa molto è quello di Tom Hardy, secondo me sarebbe il migliore, però non è più, mi pare di poter dire, visto che Tom Hardy è del 77, insomma non è più trentenne, è ormai quarantenne, è una faccia molto molto decisa, è un attore che ha fatto tanto il cattivo negli ultimi tempi, ma che ha, secondo me, fra quelli di oggi ha sicuramente le physique du role migliore. Però se poi la scelta appunto sarà quella di ringiovanire, bisognerà passare ad altre cose. È tramontata l'idea di uno 007 di colore? Ma il 007 di colore, Idris Elba, vogliamo fare il nome, è un grandissimo attore inglese. Quando Idris Elba, spesse volte l'hanno intervistato, gli hanno chiesto di questa opzione, lui sorride e anche su Twitter ha fatto parecchie battute. No, secondo me è un'opzione da scartare, perché non non perché l'attore non sia valido assolutamente, ma perché uno 007 di colore non è proponibile. Guarda, il fatto del ritorno di Daniel Craig per un altro film è una strategia, secondo me, di Home Production ben precisa, è quella di poter fare grandi incassi di nuovo su Bond 25, che è un film molto importante, e poter avere il tempo anche per costruire il nuovo soggetto su un nuovo attore. Certo, per preparare il futuro, insomma. Esatto. Perfetto, allora Ilario, grazie per averci raccontato un po' a che punto è la notte di James Bond verso il numero 25. Ilario Cittò, fondatore di lecercleclub.com, e andate a informarvi su tutto quello che volete. Noi sicuramente, Ilario, ci risentiremo quando ci sarà qualche altra notizia. Assolutamente sì, grazie ancora, ciao. E allora, questo è il punto su James Bond. Adesso noi passiamo invece al punto sui film da vedere in casa con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio, che è già al telefono con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Ciao Giulio. Allora, questa settimana abbiamo un po' di diversità. Intanto non abbiamo da risolvere e da recensire nessun DVD game, perché i nostri ascoltatori non hanno indovinato e l'abbiamo riproposto. Quindi questo ce lo salviamo. Ma soprattutto io voglio partire dalla grande notizia del mondo del cinema di questa settimana, è che Giulio San Giorgio è il nuovo direttore di Film TV. Sì, dal numero. Confermi, ce lo confermo. Confermo assolutamente, sì, dal numero in edicola questa settimana mi occuperò appunto della direzione responsabile del giornale. Insomma, sono molto contento, ci sono molte novità, e insomma sono contento anche del fatto che il precedente direttore continuerà a lavorare insieme a noi. Che un altro amico, Mauro Gervasini, lo citiamo, insomma. Sì, assolutamente, dobbiamo cercare insieme di portare avanti questo progetto, quindi ci siamo, come dire, spostati su diversi orizzonti. Mauro si occuperà soprattutto anche della parte di sviluppo dell'online. Senti, raccontaci un po' però qualche novità già da questo numero, con un Humphrey Bogart che campeggia sulla, prima abbiamo parlato di Casablanca, che campeggia sulla copertina di Film TV. Sì, appunto, l'idea è quella di preservare un po' la natura di Film TV ed aprirlo un po' a delle novità. Come dire, l'icona di Bogart che campeggia sulla locandina è anche una sorta di dichiarazione di intenti, di ritornare a trattare il cinema passato con degli approfondimenti, ma anche a tutte le nuove frontiere dell'immaginario contemporaneo. Quindi, ad esempio, abbiamo inserito una nuova rubrica molto ampia dedicata alla serialità televisiva, ma trattiamo anche di videoclip. C'è un bellissimo intervento su questo numero di Gianni Canova, che studia come ad esempio il terrorismo utilizza le immagini, quindi diciamo che parliamo di cose facili. Certo, di tutto il cinema laddove si manifesta, insomma, in tutte le sue forme. Però noi dobbiamo parlare anche del cinema da vedere a casa nostra. Abbiamo selezionato due film molto particolari. A partire da domenica 15 gennaio, dove su Iris alle 23:10 c'è un film che io amo molto, che è Guida per riconoscere i tuoi santi, di Ditio Montiel. Sì, devo dire che quando uscì in sala questo film sembrò un piccolo miracolo, quantomeno a chi crede che la parola miracolo possa essere spesa parlando di cinema indipendente americano. Insomma, un bel film, sincero, fuori canone, veramente urgente. Il regista era l'esordiente Ditio Montiel, che non aveva assolutamente un curriculum d'autore cinematografico, era nato e vissuto nei sobborghi del Queens newyorkese. Il film è tratto dalla sua autobiografia romanzata ed è la storia di un gruppo di amici che fatto di strada, risse, amori e di rapporti molto difficili con le famiglie. Tutto veramente pare molto più vero della media del cinema indipendente americano, senza sentimentalismi o cose estetizzanti. Montiel poi ha continuato a fare film a Hollywood, ma devo dire che quella prima volta rimane la sua cosa più bella. E ricordiamo anche un grande Robert Downey Jr. nel cast, prima poi di mettersi la corazza di ferro di Iron Man. Lunedì 16 gennaio invece, qui andiamo a recuperare qualcosa di molto più consolidato, Iris, sempre alle 3:45 di notte, ci regala Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader. Sì, in vacanza a Venezia Colin e Mary, giovane coppia il cui rapporto è una svolta, conoscono prima Robert, un signore distinto e misterioso, e poi sua moglie Carolyn. Paul Schrader ingabbia queste dinamiche di relazioni incrociate nell'ambientazione decadente di una Venezia che non è mai citata, ma è fotografata da Dante Spinotti con un senso molto carnale, quasi sporco. Mentre il film gioca di contrasto con le musiche di romanticismo esasperato di Angelo Badalamenti, e viene fuori veramente un film straniante, elegante, erotico, ma con un senso di marcio sottofondo, una sorta di sarabanda sullo sbandamento del viaggio e dei suoi desideri. Ci regge niente poco di meno che uno dei maggiori drammaturghi del Novecento, Harold Pinter, che a seconda i toni laconici e ficcanti della scrittura di Ian McEwan, grande romanziere da cui il film è tratto. È un film di genere sottostimato, ma assolutamente da recuperare. E allora potete recuperare appunto su Iris alle 3.45 di notte di lunedì 16 gennaio. Grazie Giulio, ancora auguri per la tua nuova missione da direttore responsabile. Ogni tanto fai anche un po' l'irresponsabile, che ci piace lo stesso. Ciao Giulio. Grazie Franco, saluto. E le note ci dicono che siamo arrivati alla fine della Rosa Purpura. Allora appuntamento alla prossima settimana con tutto il cinema che c'è alle 18 su Radio 24.